Dr. Jekyll, hey hey, Mr. Hyde. Yeah, tu nemmeno lo immagini, viaggi che giorno e notte faccio con la mente, baby. Molotov a grappoli sulla testa della gente. Yeah, di certa gente, sì, è chiaro. Dedicati bastardi dentro alle puttane, cazzo. E se ci pensi, forse è anche un po' dedicata a te. Yeah, yeah, oggi sono troppo fuori, però continuo a aprire le tue gambe dopo che m'hai fatto i cori come pussy, uomini soli. Ma me l'hai data dopo che t'ho regalato i fiori. Yeah, Barbera del Monfi insieme all'uomo del monte. Dove sono i tuoi antenati? Chiedili Rocaronte. Non basta che mi parli di cultura generale. Tu col rap non ci sai fare, no baby, fatti affogare. Se no, usa la testa, già. Sì, pensa a ciò che fai. E se fai la furba te l'abbasso io la cresta. Sai, questo è il motivo della mia festa. Zero freestyle, basi liriche stile, poi mi racconti un po' quei viaggi che ti fai. Dr. Jekyll, a.k.a. Rocks, a.k.a. Mr. Hyde. Tu nemmeno lo sai, i viaggi che giorno e notte faccio con la mente, baby. Molotov a grappoli sulla testa della gente come un pazzo che ti molesta, come un eretico scappato dall'inchiesta, baby. Come il marchio fuoco che ho sull'anima, già sai che quello resta, sì che la mia coscienza me lo fa tenere gangsta. Dicevo, sono un pazzo che ti molesta, sono un eretico scappato dall'inchiesta, baby. Tengo un marchio a fuoco dentro l'anima, già sai che quello resta, sì che la mia coscienza me lo fa tenere troppo gangsta. Troppo gangsta, baby, troppo gangsta. Yeah, yeah. Adesso prendi il respiro, conta 3, 2, R.O.X. Oramai uno status symbol, R.O.X. Faccio sesso ma sto single. Vengo da Torino e chi mi conosce lo sa che c'è sempre stato un sacco di rispetto già per tutti i miei fra. Sì, pure troppo per chi ora non ne merita, ma lo sorpasso pure in bicicletta e li lascio anche la dedica. Una ferita aperta, sì, ma giorno dopo giorno la si medica. Quindi beccati sta predica, ragazzetto del cazzo, perché R.O.X. prima o poi si vendica. Sì, diplomazia solo se d'estate nevica. Senti, vattene a fanculo e mendica il perdono, bello. Vattene a fanculo, parla con il Dio buono. Io non so chi sono, ma tu lo sai chi sei. Suoni la chitarra, nah. Vai con casa dei, fai la video arte, nah. Resta nei musei, come me la passo bello. Davvero tutto ok. Sono un pazzo che ti molesta, come un eretico scappato dall'inchiesta, bello. Come il marchio a fuoco che ho sull'anima, già sai che quello resta, sì che la mia coscienza me lo fa tenere che. Sono un pazzo che ti molesta, sono un eretico scappato dall'inchiesta, bello. Tengo un marchio a fuoco dentro l'anima, già sai che quello resta, sì che la mia coscienza me lo fa tenere troppo gangsta. Troppo gangsta, baby, troppo gangsta. Yeah, yeah. Jack and Hyde, bitch. Yeah. Torino, bitch boy. Oh, X.